faccia all'amore frenetico un core col proprio felen. Quanto è falso che faccia all'amore frenetico un core col proprio felen. È ben pazzo chi crede che sia, è ben pazzo chi crede che sia la nostra pazzia quando è nostro bene. È ben pazzo chi crede che sia la nostra pazzia quando è nostro ben, quando è nostro ben. Dolce rimedio, dolce rimedio.